tutte quelle scene ci ribolliva il sangue, e quel pomeriggio alle 17 nella piazza ormai storica dei movimenti a Porta Pia abbiamo deciso di fare la strada, perché ci tremavano le gambe a vedere centinaia di persone che finivano in mezzo alla strada. Purtroppo di queste scene ne abbiamo viste tante, ne abbiamo viste ormai troppe, a Roma, a Torino, a Bologna, in tutta Italia. Ma la giornata di oggi ci dà una conferma che siamo tanti e tante a non arrenderci, siamo in tanti a non mollare, siamo in tanti a gridare basta strati e basta scioperi. A Roma quel pomeriggio, mentre a Porta Pia veniva occupata da movimenti di lotta per la casa, siamo stati caricati con l'idrante. A vedere quelle immagini penso c'eravate tutti. Ebbene, penso che non siamo mai stati così felici di poter dare questo tipo di solidarietà, perché da Roma a Bologna la notte è una, e di quelli che non escono dalle case e di quelli che non si arrendono. Io stesso, insieme a altri 30 ragazzi, il 25 agosto ho servito lo sgombero, hanno tolto anche a me una casa, però non stiamo mollando, abbiamo deciso di continuare. Ci vogliono dire che le risorse non ci sono, che non ci sono le case, noi lo sappiamo bene dove sono quei soldi, sono nelle stesse tasche di palazzinari, di costruttori, di mafiosi. Ci vogliono raccontare che questo paese ha bisogno delle linee ad alta velocità, delle TAV, ha bisogno di Expo per riqualificarsi. Noi lo ribadiamo ancora una volta, l'unica grande opera che ci serve a Roma, a Bologna, in tutte le città, è casa, reddito e dignità per tutti e tutte. Se vi confermate, qui non si scoprirà, solo si barrica, noi rimaniamo qua.